abbiamo ampliato i temi da prendere in considerazione. Siamo andati a definire una scaletta, diversi compagni si sono impegnati ad approfondire gli argomenti che a un certo punto noi avevamo diviso in risultati elettorali, la politica estera di Biden, la politica e programma interno di Biden, le milizie bianche e nere, il Black Lives Matter, USA e Cina, e non una serie di note sul Black Marxism, la guerra civile e la rivoluzione sociale negli Stati Uniti. È evidente che di tutto questo non sarà possibile discutere ed è per questo che abbiamo scelto alcuni temi che abbiamo cercato sommariamente di elencare in quella scaletta nella mail dove invitavamo a collegarsi e vedremo per quanto ci sarà possibile di metterli a fuoco. Quindi io parto proprio prendendo in considerazione quelle righe di motivazione che diceva: se il poliziotto globale che ha allestito 800 basi per il controllo del mondo non riesce a mantenere l'ordine in casa sua, c'è un problema. Su questo piano facciamo un passo indietro. Passo indietro è che andiamo al 2014, perché noi di questo ci eravamo interessati, soprattutto nel momento in cui un rapporto tecnico denominato NATO 2020, tanto per farla breve, il quale riteneva che in futuro le forze NATO avrebbero dovuto condurre operazioni in aree urbane dove le infrastrutture e noi combattenti, i civili, avrebbero avuto un ruolo determinante. Questo studio partiva da una constatazione relativa alla possibilità che rivolte nelle aree urbane, cioè in città prevalentemente europee, non trovassero negli apparati delle repressioni nazionali capacità e forze sufficienti a riportare l'ordine. Abbiamo sempre tenuto in considerazione quella che io definisco la questione militare, a differenza di tanti ambiti pacifisti. E su questo piano, nel marzo del 2018, abbiamo tenuto un'iniziativa pubblica per descrivere e commentare la battaglia in una città di 1,5 milioni di abitanti, Mosul, che era diventata una delle capitali dello Stato Islamico, suddivisa in quartieri con molti villaggi intorno al centro della città e con vari punti sul fiume Tigre che uniscono la parte occidentale e quella orientale della metropoli. La coalizione guidata dagli Stati Uniti riuscì dopo mesi a rendere operativi 45.000-50.000 soldati formati da truppe speciali e forze regolari dell'esercito iracheno, milizie sunnite, sciite, turcomanne e peshmerga curdi, che impiegarono 8 mesi dopo dure e feroci battaglie per liberare la città dai resistenti, quantificati al massimo in 6.000 combattenti. Le potenze della coalizione daranno il loro contributo tramite copertura aerea e logistica. Alla fine del tutto le vittime sono state calcolate tra le 25 e le 35.000 persone, comprese i civili. No, non fa niente, lo ascoltiamo e basta. Persone. Una ventina. Dunque, se poi pensiamo ai vari movimenti, qui facciamo un salto, perché comunque quel 2014 si situava proprio in mezzo a quel periodo che va dalla crisi del 2008 alla pandemia del 2020. Questo studio. Se poi pensiamo ai vari movimenti che nel 2019 li abbiamo visti manifestare dal Sud America ai paesi arabi della sponda mediterranea, a Hong Kong, alla Francia dei gilet gialli, dall'Iran, l'Iraq, a Kurdistan e quanti altri posti, adesso non vado a memoria, ma la cosa certa è che il sotterraneo sociale e li ha prodotti non potrà che ripresentarsi con l'aggravante della crisi prodotta dalla pandemia. Mi sentite? Sì. Allora, scusate, mettete chi ha il muto perché non riesco a sentire il compagno che parla. Fai clic su consenti, non so chi deve farlo. Mi sentite adesso? Sì, sì, no, sentivo i disturbi sotto di altri compagni, insomma. Allora, quando abbiamo iniziato abbiamo parlato che si pensa anche di come dire, di sciogliere alcuni nodi, no, dentro tutto questo, queste questioni. Chiaramente un nodo che pensiamo che non sia da sciogliere è quello relativo al ruolo controrivoluzionario e reazionario che Washington e i suoi rappresentanti svolgono sia a livello internazionale che all'interno degli Stati Uniti. Evidentemente questo ruolo è andato a modificarsi e a indebolirsi. Sono lontani i tempi che vedevano gli Stati Uniti vincitori della Seconda Guerra Mondiale, paese creditore del mondo e guida ideologica del sistema capitalistico, con un alleato formidabile e irripetibile, l'Unione Sovietica, che svolgeva la funzione di gendarme per metà dell'Europa. Ad oggi nessuno, Cina compresa, può sostituirsi alla guida della difesa del sistema di questo modo di produzione. Prendiamo in considerazione la questione tenendo presente che la crisi economica strutturale che dal 2008 non vede invertire la tendenza, anzi la pandemia Covid-19 si è sovrapposta peggiorando la situazione. L'amministrazione Trump ha condotto una politica sotto molti aspetti lontana dal ruolo imperiale degli Stati Uniti, dedita all'isolazionismo che ha contribuito a un declino ulteriore della governance mondiale. Tanto per fare un esempio, se pensiamo che a 20 anni dall'invasione dell'Afghanistan il risultato è un tavolo per trattare con i talebani, è tutto un programma. E se si toglie il rapporto privilegiato con Israele nei territori della geopolitica, dove altre potenze, in primo luogo la Cina, hanno iniziative sia economiche che politiche, il peso strategico degli USA è in declino. Altra questione sono i rapporti con la Cina, che da un punto di vista economico si sono rivelati un disastro, in quanto non hanno spostato la bilancia dei pagamenti, mi riferisco chiaramente ai rapporti commerciali, ma hanno aumentato i sussidi, per esempio, agli stati della cintura agricola, dove il consenso a Trump era maggiore. Ultimo, ma non ultimo per importanza, il rapporto con l'Europa, logoratosi negli ultimi tempi, culminato alla fine dell'anno scorso con la Brexit inglese e un'agenzia americana dentro l'Europa, il cui nuovo ruolo è tutto da definire, ma soprattutto con l'accordo bilaterale per gli investimenti tra Unione Europea e la Cina, che apre il mercato alle aziende dei paesi aderenti alla UE, alla Comunità Europea. Questo era uno dei primi, delle prime considerazioni. Poi noi avevamo detto che se una minoranza significativa invade la sede del potere legislativo degli Stati Uniti a seguito della propaganda e all'invito di un presidente sconfitto ma ancora in carica, c'è un problema. Bene, su questo piano dobbiamo mettere in evidenza che nessuno dei movimenti, a partire da Black Lives Matter, Antifa o altri movimenti per i diritti civili, si sia mosso per difendere il simbolo degli Stati Uniti. Il disprezzo per queste istituzioni ha assunto in modo ambivalente il suo valore. Questo passaggio, che speriamo si riconfermi nell'immediato futuro, apre possibilità per l'auto-organizzazione libera dal feticcio democratico per passare a una lotta politica indipendente. Questi messaggi si determineranno anche in relazione ai provvedimenti che la nuova amministrazione Biden e alle valutazioni che i vari movimenti, a partire da Black Lives Matter, sapranno dare alla politica del candidato che hanno sostenuto durante le elezioni. È chiaro che non possiamo abbandonare questo fatto dell'invasione senza parlare di quella che io definisco la variegata composizione dei manifestanti penetrati nei palazzi di Capitol Hill, e non dobbiamo farci allucinare da quanto di folcloristico o da trattamento sanitario obbligatorio abbiamo visto. Elementi di QAnon, di Proud Boys, di Free Percenters, di Patriot Prayers, di Boogaloo, un gruppo che sostiene di essere armato e pronto per la seconda guerra civile. Teniamo presente che un hotel a Washington costa $200 a notte e che la stragrande maggioranza di questa avanguardia, sollecitata e blandita da Trump, sembra costituita prevalentemente da categorie che dal punto di vista del reddito non sono negli ultimi gradini della scala sociale. Attenzione comunque, questo non significa che quanto abbiamo visto non sia un prodotto delle mutate condizioni di vita sviluppatesi nell'ultimo decennio, che vedono una parte dei ceti medi perdere redditi e precipitare verso una posizione sociale che può addirittura finire nella povertà. Al momento la galassia dei gruppi suprematisti, oltre alle differenze che esistono tra un gruppo e l'altro, non è in grado di rappresentare da un punto di vista organizzativo e politico i milioni di persone che vivono in mutate condizioni di lavoro e di vita. La questione dei ceti medi attraversa bianchi, neri, gialli e meticci, perché a differenza del passato, dove le mezze classi costituivano la base del consenso allo stato di cose presenti, oggi, e questo colpisce anche l'Europa, non vale più così. Populismo, sovranismo e ricerca di identità perdute sono le rappresentazioni di questo processo. Certo, se, come abbiamo ulteriormente messo un altro se tra metropoli e America profonda gli stati non sono mai stati così disuniti come le recenti elezioni hanno dimostrato, c'è un problema. Allora, facciamo così un minimo riferimento a quelle che sono state le elezioni. L'affluenza alle urne, sia fisica che tramite posta, è stata del 62%, una percentuale di partecipazione che per ritrovarla bisogna andare indietro quasi 100 anni. Trump ha perso con il 47% dei voti, prendendo l'1% in più delle elezioni del 2016. E in termini di votanti migliorando di 10 milioni i suoi sostenitori. Totale dei suoi votanti 74 milioni, Biden ha vinto col 51% per un totale di 81 milioni di voti. Questa polarizzazione da più parti richiamata e definita e presa in considerazione da taluni con paura, no, questa polarizzazione degli schieramenti non deve farci pensare a una netta divisione degli interessi, ma a una dinamica in movimento sia nei democratici sia nei repubblicani, che vede ormai da tempo l'ascensore sociale procedere all'incontrario e di conseguenza porre la possibilità di aggregazioni che vadano al di là delle rappresentanze che vediamo sfilare oggi. Questo processo vede all'orizzonte il ripresentarsi del protagonismo della questione di classe, intesa politicamente, in quanto dal punto di vista sociale la legge della miseria crescente certifica la condizione di gran parte della working class. Necessita l'interpretazione dei movimenti in rapporto alla degenerazione dei rapporti sociali per poter pensare a una politica autonoma e indipendente. Qui c'era tutta la questione relativa a, a quella che viene definita la guerra civile, l'ipotesi di guerra civile, che io dico che se per ora la guerra civile rimane latente è chiaro che c'è un problema, e in questo caso lasciavo a Visconte di dare il contributo, perché lui si era interessato di questo come di altre questioni. Visconte, sente? Visconte, mi senti? Sento poco, comunque sì, sento. Io adesso ti sento però. No, ti lasciavo la parola per... Ti senti? Per dire qualcosa. Sì, adesso ti sento. Allora dico io? Allora, qui ci sono due possibilità. Su quello che ho detto io, si vuole fare qualche domanda, qualche cosa, oppure che lasciamo che Visconte finisca la sua parte e poi dopo si comincia, come volete, insomma. Visconte, vai. Vado? Sì. Allora, la previsione di una guerra civile a bassa intensità era stata già ipotizzata da Loren Goldner in una intervista che lui rilasciò a Radio Blackout nel novembre del 2016, cioè subito dopo l'elezione di Trump. Lui motivava questa sua previsione sul fatto che l'elezione di Trump avrebbe aperto la strada ai gruppi suprematisti bianchi armati, come poi si è visto benissimo dopo, e sul fatto appunto che le elezioni avevano già allora segnalato una polarizzazione nella società americana molto accentuata. La presidenza Trump, i 4 anni, hanno, lungi dall'attutire questa polarizzazione, l'ha invece acutizzata, a mio parere. In effetti, lo stesso Loren Goldner, riferendosi alle promesse che Trump aveva fatto alla classe operaia americana, cioè diceva la pretesa di offrire quei milioni di posti di lavoro nelle industrie e nelle infrastrutture, non si è realizzata nella presidenza Trump. Quando subito dopo la sua elezione Trump convocò una riunione dei grandi manager americani, cioè dalla General Motors alla FCA, c'era anche Sergio Marchionne all'epoca, promettendo in cambio di un ritorno della produzione negli USA. Perché? Non lo sentiamo più. Era già attivato Pagliarone. C'è scritto qui. Pronto? Ecco, si era spento l'audio, si era spento l'audio, adesso mi sentite? L'audio a risposte, Sì, si era spento. No, dicevo che l'accoglienza di questi grandi manager alle proposte di Trump fu molto tiepida. In effetti avevano già delocalizzato in Messico la stragrande maggioranza della produzione automobilistica, e quindi non avevano molto interesse a rientrare in una visione nazionale, nonostante che i salari negli Stati Uniti si siano notevolmente abbassati dall'epoca d'oro. ha avuto un'accoglienza entusiasta l'industria petrolifera, sicuramente, perché aveva promesso di sbloccare i vari oleodotti, le varie trivellazioni col fracking, addirittura in Alaska, le trivellazioni in Alaska che erano state bloccate da Obama, e questo in effetti è andato avanti. La cosiddetta New Economy non era molto contenta, Elon Musk, che sarebbe il produttore delle vetture elettriche Tesla, aveva diciamo molto interesse ad allargare a livello mondiale i suoi affari. Un altro, il fondatore di Uber, per esempio, un certo Kalanick, addirittura non voleva andare più alle riunioni. Teniamo presente che Uber in teoria vale 69 miliardi di dollari contro i 24 della General Motors e i 15 di FCA. Naturalmente è una bolla finanziaria, questo è un altro argomento su cui bisognerà ritornare. Comunque poi questo Kalanick ritornò perché i suoi autisti erano tutti immigrati, e quindi in qualche modo doveva trattare con Trump, diciamo, la questione dell'immigrazione, che è stata una, come sappiamo, dei cavalli di battaglia di Trump. E addirittura la Silicon Valley si era messa contro Trump perché non può fare a meno degli informatici stranieri, inclusa una parte di questi che proviene addirittura dal Medio Oriente. Gli stessi tassisti newyorkesi sono quasi tutti immigrati, in parte musulmani, quindi diciamo, la politica di Trump sull'immigrazione è stata contrastata quantomeno. Un altro esempio di questo mancato reshoring, come dicono negli Stati Uniti, è la Foxconn. Un commentatore delle elezioni che si chiama Jack Rasmus dice che la Foxconn aveva promesso, sappiamo cos'è, quella che produce gli iPhone su licenza della Apple, aveva promesso di riportare 5.000 posti di lavoro negli Stati Uniti, in particolare nel Midwest superiore, poi vediamo cos'è, e invece ne erano riportati solo 250 in un magazzino, posti di lavoro. Quindi in questi stati del Midwest superiore, che sarebbero il Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, cioè dove c'era la grande industria automobilistica, Detroit, tanto per intenderci. Come? La zona dei laghi. Sì, esatto. Sì, da Detroit, intorno a Detroit. Queste tre stati sono tornati, nelle nuove elezioni, sono tornati ai democratici, proprio perché, mentre prima erano nelle elezioni precedenti, erano stati con Trump, proprio perché le promesse di Trump non si sono realizzate. Alcuni dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti si possono trovare su Countdown numero 4, che penso abbiamo visto tutti. E i dati sono precedenti alla presidenza Trump, ma sono successivi alla recessione del 2008. E nel settore manifatturiero i posti di lavoro sono scesi da 12 milioni e mezzo a 8 milioni e mezzo nel 2013. Ma non è possibile chiudere i microfoni. È assurdo. Soprattutto nel settore della componentistica auto, tra novembre 2000 e novembre 2011 si sono persi 400.000 posti di lavoro. Come sappiamo, la componentistica auto si è trasferita in notevole parte in Cina. Naturalmente l'occupazione è passata dalla produzione di beni alla logistica e ai servizi, dove però i salari sono decisamente più bassi. Infatti, mentre nel 2010 il salario orario medio del settore privato era di 19 dollari, nella manifattura 18,61, e gli 11 milioni che lavorano nei servizi, alloggi, ristorazione eccetera, guadagnavano quasi la metà, 10,68 dollari l'ora. La novità più importante è l'enorme crescita dei latinos negli ultimi 30 anni, sono passati dal 6% della forza lavoro al 14,3%, quindi superiori agli afroamericani, e guadagnano naturalmente meno di tutti, cioè 578 dollari rispetto agli 802 dei bianchi e ai 629 dei neri per settimana. Ora, naturalmente, questi dati, che erano già molto pesanti prima della presidenza Trump, si sono peggiorati, anche se non ce l'abbiamo, diciamo, perlomeno io non li ho recenti, bisognerebbe trovarli. Comunque, sicuramente con la pandemia questi dati sulla disoccupazione sono diventati, penso, disastrosi. Lo stesso Michael Roberts, nell'articolo che penso abbiamo tutti visto, dice che le elezioni americane sono state un disastro, rispecchiano il caos in cui si trova ora l'imperialismo statunitense, con l'economia in ginocchio, la pandemia Covid e milioni di disoccupati, salari ridotti, servizi pubblici paralizzati, insomma una visione molto catastrofica, forse non è proprio così, però insomma la situazione è molto pesante. E Michael Roberts parla appunto nel suo articolo della polarizzazione che si è verificata in America, e dice che, anche se dice che poi la sconfitta di Trump è dovuta al voto delle donne, dei giovani, delle minoranze etniche, della classe operaia, delle grandi aree urbane, eccetera, eccetera. Però queste sono osservazioni così piuttosto generiche. E veniamo appunto alla polarizzazione sociale. Nella tradizione della sinistra comunista questo termine definisce una condizione appunto in cui la politica rivoluzionaria è in grado di fissare una linea di demarcazione netta fra le classi, proletariato da una parte e borghesia dall'altra. Naturalmente questa situazione non c'è oggi negli Stati Uniti, anzi è piuttosto lontana, però diciamo la situazione è in movimento, quindi si può vedere un po' cosa succede. La polarizzazione negli Stati Uniti non è univoca, si presenta sotto diverse forme. La prima naturalmente che vediamo è quella razziale o etnica, che si è estremamente radicalizzata dopo l'uccisione di George Floyd. Il riferimento è appunto alla corrente del Black Marxism, come viene chiamata. Abbiamo visto anche degli articoli qui che sono arrivati, quello sul ritorno di John Brown e quello sulla guerra civile e rivoluzione sociale. Nel primo articolo, Il ritorno di John Brown, gli autori Shemon e Arturo sostengono che l'autoattività del proletariato nero è la forza trainante del processo rivoluzionario, ma ricercano un collegamento con i proletari bianchi colpiti dalla deindustrializzazione, dall'austerità e dalla crisi finanziaria. Quindi l'ipotesi è che l'alleanza fra il proletariato bianco, il capitale e lo Stato si stia deteriorando in seguito alla crisi. Nella visione del Black Marxism, la divisione razziale del proletariato è fondante del capitalismo negli Stati Uniti. E loro si rifanno alla guerra di secessione, la guerra del 1861-65, e la considerano quasi una rivoluzione incompiuta, quella che doveva essere la liberazione appunto dei lavoratori di colore del sud non si è realizzata. Quindi il ritorno di John Brown, che era un personaggio dell'Ottocento che aveva appunto unito delle bande nere e bianche facendo degli atti rivoluzionari, il ritorno di John Brown e il ritorno dell'alleanza fra proletariato nero e proletariato bianco. Nel secondo articolo gli autori sostengono la tesi della guerra civile, che naturalmente vede protagonisti i neri da una parte e i suprematisti bianchi dagli altri, ma dicono che deve combinarsi questa guerra civile con la rivoluzione sociale. Rivoluzione sociale la definiscono distruggere le relazioni con le merci, rilevando le istituzioni e i siti di produzione necessari e creando un sistema di riproduzione sociale senza classi per tutti i soggetti coinvolti. Comunque, diciamo, la guerra civile razziale in questo caso, senza invece una rivoluzione sociale, sarebbe destinata alla sconfitta, secondo questi autori. Quindi c'è un rapporto inverso, cioè se la guerra civile riesce a collegarsi con la rivoluzione sociale c'è possibilità di vittoria, altrimenti è destinata alla sconfitta. Poi ci sono i compagni del collettivo Noi non abbiamo patria, che parlano di crescente polarizzazione sociale e di classe, riferendosi ai giovani senza riserve, giovani proletari di tutti i colori, neri, bianchi, mulatti, eccetera, e ai primi scioperi spontanei degli essential workers, cioè quelli che lavoravano nei lavori essenziali, come dire. Anche gli operai latini dell'agrobusiness, della macellazione carni, cioè delle rivolte giovanili che sono avvenute in varie città americane, da Portland a Kenosha, di cui è arrivata notizia. Quindi questa crescente polarizzazione, in questo caso di classe, perché si tratta comunque di giovani proletari senza riserve, ha determinato un piccolo segnale che settori di avanguardia dei vari fronti di classe in ricomposizione escono fuori dai limiti imposti dal perimetro elettorale borghese. Poi il movimento si allarga anche alla richiesta di moratoria degli sfratti dei lavoratori, blocco degli affitti, e sono tutte definite patate bollenti che vengono consegnate al nuovo presidente, insomma. Concludono: questo è il processo reale che emerge, di cui non possiamo prevedere gli esiti, e gli stessi non sono scontati. Esistono poi altri tipi di polarizzazione che io accenno solo perché sono difficili da definire. Per esempio quella fra le due coste, Atlantico e Pacifico, che sono maggiormente coinvolte nella globalizzazione finanziaria, nei processi di informatizzazione, Silicon Valley, eccetera, e il Midwest rurale è tendenzialmente isolazionista, cioè la classica politica isolazionista degli USA dei primi tempi dell'Ottocento, che è stata riproposta in qualche modo da Trump con la parola d'ordine America First. Oppure la polarizzazione fra i grandi centri urbani, dove prevalgono le grandi imprese multinazionali, e i piccoli centri, dove prevale la piccola impresa, sia industriale che agricola. Insomma, tutte queste faglie di rottura che esistono nella società americana possono sfociare in una guerra civile che per adesso, appunto, Goldner diceva di bassa intensità o latente, ma potrebbe anche in un futuro avere anche delle esplosioni che mettono comunque in pericolo l'unità della società americana, e quindi se il declino economico continuerà penso che ci saranno delle radicalizzazioni. Basta, finito. Ma scusa, sono Sandro. Posso dire due cose? Mi sentite? Sì, sì. Ok. No, volevo dal mio punto di vista puntualizzare due o tre cose, perché avendone scritto parecchio in questi periodi su Carmilla e avendo un libro in preparazione sul tema della guerra civile vorrei dare un contributo. La prima cosa che mi sento di dire è, slegandoci dalle analisi che alcuni fanno della situazione americana, quello che c'è da cogliere oggi, l'ho scritto anche su Carmilla, come nell'Ottocento, che siamo di fronte a uno scontro tra due modi di produzione, o oggi di un modo di produzione che sta cambiando. Cosa voglio dire? La guerra civile americana non è stata una guerra per liberare gli schiavi, soltanto nel 1863 Abramo Lincoln ha fatto l'editto sperando che gli schiavi insorgessero, ma non sono insorti. In realtà Marx lo suggeriva già nei suoi scritti, era una guerra anticoloniale, cioè se gli Stati Uniti del Nord volevano sviluppare la loro potenza industriale, dovevano liberarsi dalla dipendenza di produttori di materie prime indirizzate alla grande industria inglese. E quello è stato lo scontro tra il Nord e il Sud, tra una potenza che si voleva industriale e una economia che invece era una economia esportatrice di materie prime. Quindi lo scontro fondamentale era questo. Era una guerra civile perché? Perché dobbiamo stare attenti, se noi siamo davanti a una rivoluzione abbiamo degli attori ben definiti, se siamo di fronte a una guerra civile abbiamo più attori che partecipano, cioè ognuno partecipa con un suo progetto, poi che questo progetto vada in porto in meno o meno non è secondario, ma arriva dopo, no? Parto dalle considerazioni che faceva per esempio Claudio Pavone sulla resistenza. La resistenza in Italia è stata una guerra civile in cui c'erano più attori, c'erano gli antifascisti erano divisi in mille correnti, i fascisti avevano l'appoggio dei nazisti, ognuno giocava la sua partita. Nella guerra di secessione americana la partita fu ancora più complicata perché c'erano i grandi produttori del nord, c'erano i proprietari terrieri del sud, gli schiavisti, gli antischiavisti, gli operai del nord che su suggerimento proprio dei rappresentanti dell'internazionale parteciparono a quella guerra a fianco, non dimentichiamolo mai perché questo troppo spesso, del partito repubblicano che all'epoca era il partito realmente progressista, il partito democratico era quello dei grandi proprietari terrieri. E queste sono cose significative. Oggi siamo di nuovo di fronte a una cosa di questo genere. Io non sono così convinto che tutti gli operai americani, le grandi zone industriali abbiano votato per Biden, perché anche dalle statistiche ci risulta che anche nelle zone in cui hanno vinto comunque i democratici, spesso i centri urbani hanno votato per Biden, le periferie hanno continuato a votare allegramente per Trump. Spesso la vittoria tra l'uno e l'altro, anche dove ha vinto Biden, è stata di pochi punti percentuali, quindi non abbiamo, difatti lo dicevano anche i giornali, insomma non c'è stata questa ondata blu che tutti si aspettavano, c'è stata un'ondina che, avendo visto molti andare a votare in maniera massiccia, questo sì è stato il fenomeno importante di queste votazioni, si è vista la vittoria di Biden, ma in realtà Biden e i democratici che gli stanno dietro rappresentano poi quella nuova economia, quella basata su big tech, su big data, big pharma, sulla gestione delle merci, no? Sulla gestione delle merci, che non è la produzione di merci. Bezos è interessato a vendere più merci possibili attraverso la sua piattaforma, non è interessato a vendere merci americane, gli vanno benissimo le merci cinesi se costano meno, perché meno costano più si vendono. Questo è, e quindi questo crea un conflitto all'interno dello stesso capitalismo tra quello, chiamiamolo così ancora per certi versi, nazionale e l'altro decisamente globalizzato, che si riflette poi all'interno delle posizioni. Quindi leggere solo classe operaia eccetera diventa difficile, probabilmente c'è tutto un nuovo proletariato che è legato a questo nuovo tipo di economia, pensiamo ai fattorini, alla distribuzione, tutti quelli che sono pagati meno, quelli che si diceva prima, i latino sono pagati meno, i neri sono pagati meno, sì, ma i latino e i neri non sono pagati meno se lavorano in fabbrica, sono pagati meno perché lavorano in settori sottopagati che sono legati a questa nuova economia. Quindi questo scontro è ineludibile analizzando gli Stati Uniti. È uno scontro, io l'ho scritto e lo sostengo, già vinto da queste nuove forme globalizzate. È inutile pensare che ci sia una possibilità di tornare indietro, produzione nazionale, eccetera. questo non c'è, tanto è vero che proprio nei giorni della elezione di Biden, non dell'insediamento, ma dell'elezione di Biden, il primo a dichiarare dalla globalizzazione non si torna indietro è stato il presidente cinese. Ha detto: guardate, qui dalla globalizzazione non si torna indietro. E questo è molto interessante, perché probabilmente una parte, diciamo così, di capitalismo americano su questa cosa qui non è molto d'accordo. E non lo sono sicuramente gli operai, non lo sono sicuramente le classi medie. E questo è il punto per capire cosa avviene negli Stati Uniti, per cui abbiamo una guerra, la possibilità di una guerra civile. Ci sono posizioni ben chiare. Per forza di cose, né? Non è che manca il partito leninista, cose di questo genere. Quindi questi sono due fattori di cui dobbiamo tenere sicuramente conto. Il terzo fattore, mi riferisco a quello che diceva giustamente Marco all'inizio su questa democrazia, eccetera, è che per quell'assalto che ha avuto, si è svolto tra il dramma e la farsa, Capitol Hill, no? Non stiamo lì a tornare sui personaggi. Quello che è avvenuto è un po' strano che di 4 morti tra i manifestanti conosciamo solo il nome di una donna che è stata lì sparata in diretta TV e degli altri 3 non si sappia niente. Si è drammatizzata la cosa dicendo il quinto era un poliziotto ucciso, non è vero, il poliziotto è morto di infarto in ufficio dopo che erano finiti gli scontri, quindi si è cercato di drammatizzare molto, per cui tutta una sinistra, soprattutto qui in Europa, ha urlato al colpo di Stato. E nessuno sta dicendo che il colpo di Stato è sotto i nostri occhi con l'insediamento di Biden. Una città completamente blindata, con 15.000 soldati schierati, con i soldati che bivaccano davvero come manipoli all'interno del Parlamento. Andate a vedere le foto online. E Biden che ha immediatamente rivendicato i pieni poteri per il contrasto al Covid. Guardate che come al solito ci sono da un lato i fessi, che vengono sapientemente, ma nemmeno manipolati, non sono un anticomplottista totale, però insomma che in qualche modo finiscono nel calderone, e qui sto parlando di quei manifestanti che speravano di andare a Washington a fare chissà cosa e non l'hanno fatto, e dall'altra quelli che poi questa cosa qui la prendono come stampella. Credo che questa cosa qui, tutte queste cose ci dicano, gli Stati Uniti sono in una fase di transizione, non è detto che manterranno il loro primato economico, non lo manterranno perché ce lo dicono già i dati economici, che tra qualche anno sarà la Cina la prima potenza mondiale, e comunque anche sul piano della globalizzazione della tecnologia stanno rincorrendo la Cina, che è molto più avanti di loro. È molto più avanti di loro. Se andiamo a vedere i telefoni, la battaglia grossa agli Stati Uniti, se è vero che Biden ha messo i dazi, ma la battaglia grossa è stata con Huawei e sul 5G, perché i cinesi sono padroni di questo tipo di tecnologia, che è quella che all'interno di un'economia globalizzata, digitalizzata, diciamo cosa vogliamo, è determinante. Quindi abbiamo una debolezza per la prima volta degli Stati Uniti anche nel settore tecnologico, una debolezza economica, una debolezza politica al proprio interno, a cui reagiscono con l'unico modo possibile, con un rafforzamento, tra virgolette, democratico, io parlo di democrazia blindata, di democrazia autoritaria, nel tentativo di tenere insieme un baraccone che insieme non sta più, e lì si annida allora il pericolo della guerra civile. Ma la guerra civile, dal mio punto di vista, magari sbaglio, chiaramente è un'ipotesi, ma è la guerra di tutti contro tutti. La guerra civile è una guerra in cui tutti immaginano di stabilire una nuova direzione della società, dell'economia, non per forza rivoluzionaria, non per forza fascista, non per, però questi sono i giochi e aprono possibilità infinite. Quindi è chiaro che quelle faglie che si sono aperte, che attraversano le classi medie, che attraversano... E l'ultima cosa ancora sulle classi medie, poi sto zitto, è che è proprio, l'ha anche accennato Marco prima, ma insomma la rottura tra Stato e classi medie che sta avvenendo in tutto l'Occidente, la rottura del patto di stabilità tra Stato e classi medie è un fatto storico da cui probabilmente non torneremo più indietro. Cioè l'erosione della ricchezza delle classi medie, l'erosione della ricchezza, della stabilità delle classi medie che chiedevano stabilità, sia che ci fosse il fascismo, che ci fosse la democrazia cristiana, che ci fossero i repubblicani, i democristi, o i democratici, le classi medie chiedono stabilità e la producono. Se io rompo il patto di stabilità, il patto con le classi medie, sicuramente precipito in una situazione di disordine, ed è quello che sta succedendo. Allora lì torniamo Gilets Jaunes in Francia e tutte le manifestazioni, che anche questi sono prodromi di possibili guerre civili. Grazie. Grazie. Sono Alessio, potevo dire due cose? Sì, parla. Okay. Grazie, io sono il compagno, non i compagni di Noi Non Abbiamo Patria, perché quel blog di fatto è un prodotto di un singolo compagno. Io volevo riallacciarmi un attimino a questa questione della guerra civile americana, ossia al periodo del 61-65, anche perché voglio riportare un pochino meglio come, da quello che ho letto e da alcuni scambi email che ho avuto con i compagni anche che hanno scritto gli articoli citati, riprendono una tradizione, diciamo, del black marxism. Ora, quello che veniva detto poco prima su sicuramente un capitalismo delle piantagioni è un capitalismo industriale in cui quello delle piantagioni si deve funzionalizzare allo sviluppo industriale, è vero, non è che non si assuma questa cosa. Il punto che cercano di spiegare queste aree di compagni è che in un determinato momento la guerra civile, in questa contraddizione che è solamente relativa nell'ambito del capitalismo, diventa inevitabile la risultante della guerra civile, proprio perché precede un lungo periodo che va dal 1811 con la rivolta degli schiavi che vanno praticamente ad assediare, mi pare, New Orleans, ok, fino a quelle del 1831 di Nat Turner, a quelle poi che negli anni 40 e 50, sottolineati da Marx, cominciano a vedere insieme non solo la rivolta degli schiavi, ma una serie di soggetti, di coloni non possessori di schiavi e non il rentier e né capitalista, le compagne, quindi i coloni poveri, si uniscono a queste cose. Sono gli anni del Bloody Kansas, in cui praticamente ci sono questo collegamento tra rivolte degli schiavi e rivolte di contadini poveri. Ovviamente la questione non è, diciamo, automatica, però quello che sottolineano è che nell'ambito di questo sviluppo delle necessità del capitalismo negli Stati Uniti d'America, questa contraddizione emerge come una contraddizione della forza lavoro concepita come proprietà di beni mobili, e una questione di assetto anche delle terre viene risolta per la forza del capitalismo in espansione attraverso la guerra civile. Tant'è che Abramo Lincoln in una prima fase promette pure agli schiavi che si ribellano e che si vanno ad arruolare nelle truppe federali 40 acri di terreno per ogni famiglia negra, e la stessa cosa si promette ai bianchi che dall'esercito confederale cominciano a disertare dopo le prime grosse sconfitte. Considerate che le truppe confederate degli stati del sud in guerra prevedevano una coscrizione obbligatoria dalla quale erano esenti i figli dei proprietari delle piantagioni a seconda del numero degli schiavi. Cioè, se il possessore degli schiavi aveva dai 20 ai 40 schiavi, siccome bisognava controllarli, un figlio era esente da andare alle armi, e così via a seconda del numero degli schiavi. Questa cosa ovviamente nel contadino, nel colono povero, non possessore di schiavi, non solo che subisce delle pesanti sconfitte sul fronte, un pesante massacro, comincia a disertare e si unisce nel fenomeno che era già precedente del Maronege, ossia di rifugiati che vanno a creare delle comunità nelle zone paludari della Pennsylvania, della Florida e così via. Si crea questa cosa. Questo viene risolto con la guerra civile e viene risolto immediatamente, non dandole ovviamente le terre, i 40 acri alle famiglie nere, e né e ai contadini, i coloni poveri, gli si danno le peggiori terre, perché come Marx sottolinea, la piantagione schiavistica immette, proprio in virtù che la produttività della terra è data da una forza lavoro gratuita e schiavizzata, e molto velocemente comincia anche un suo impoverimento naturale, tipico per esempio delle coltivazioni, no, ad alta intensità, tant'è che comincia anche per questo motivo molti schiavi vengono trattati semplicemente come bestiame da rivendere, e mentre diciamo c'è la corsa verso l'ovest in cerca di nuove terre. A quei confederati che disertarono e che furono quelli per esempio che fecero lo stato libero della John County, che combatterono contro le imposizioni diciamo predatorie che andavano da questi piccoli contadini e gli rubavano tutto per rifornire le truppe al fronte, gli arrivarono le terre peggiori che potevano avere. Ossia, però, questa questione della distribuzione delle terre e della rivolta, diciamo, di una forza lavoro è presente e conduce all'unica soluzione possibile per poterla risolvere. Considerate che alcuni stati, come l'Oregon, addirittura aboliscono la schiavitù prima ancora di far parte dell'Unione degli Stati Uniti, perché vedono quello che succede negli stati negli anni 40 col Bloody Kansas e dicono: noi dobbiamo evitare questa cosa, e liberano, aboliscono la schiavitù, ma attuano delle legislazioni di pulizia etnica. Anche noi, non è che abbiamo bisogno di una lezione sulla storia della guerra civile americana. No, vabbè, io lo chiarisco. Il problema della perdonami, perdonami, io non volevo essere. Vabbè. Quello che si dice adesso, allora chiudo il mio intervento velocemente, che quando si dice si ripropone questa cosa, posso, da due minuti per favore, se no mi avete invitato, non mi sono autoinvitato, mi avete anche, insomma, avete anche citato, volevo esprimere cos'è che viene scritto su, da questo stupido blog che faccio io. Quello che si dice oggi è che la polarizzazione che si apre non può non essere incentrata sulla questione del capitalismo razziale, ossia sulla questione non è tanto che la rivolta del proletariato nero è l'avanguardia, ma o questa cosa viene assunta fino in fondo anche da quelli che sono, potrebbero essere attratti dal trumpismo, o non c'è trippa per gatto. Vi faccio un esempio. Nella Yakima Valley, che è la zona che va tra il nord della California, lo stato di Washington e l'Oregon, che è piena di fabbriche, cioè di industrie dell'agrobusiness e di fabbriche che lavorano alla macellazione delle carni, c'è quasi esclusivamente forza lavoro latina che è pagata e sottopagata. Rispetto a queste, e lì ci sono anche, se volete, proletari dell'Interland, della Rural America, ma quando sono partiti gli scioperi ad aprile e a maggio di questi lavoratori, la prima reazione, in virtù di difendere un proprio privilegio di, nell'ambito della cosiddetta ascensore sociale, è stato quello di organizzare i rally con i pick-up a intimidire i picchetti dei lavoratori, dei fruit workers e dei meat packing plant, che poi si sono ammalati, sono stati utilizzati gli operai sostituiti con i galeotti delle carceri che il sistema carcerario industriale della California ha realizzato in questi anni. Da questo punto di vista non basta la crisi, ma questa crisi deve determinare, attraverso la mobilitazione di questo movimento del 2020, la necessità di porsi di fronte a un bivio. Al momento questo movimento di lotta del 2020 dei neri non è sufficiente a spostare i rapporti di forza, ma questo è il punto, perché inevitabilmente una rivoluzione sociale non potrà prescindere da essere, da riconoscere il fatto che c'è una supremazia sociale anche nei posti di lavoro, perché non è vero che l'operaio nero o latino nella General Motors guadagna gli stessi soldi dell'operaio bianco. Attenzione, i giovani operai della General Motors, della Ford e così via, guadagnano circa la metà di quanto guadagna un operaio di 40 anni, di 50 anni. Questa è una divisione anche generazionale del proletariato che è estremamente importante e decisiva. Tant'è che Biden, una cosa su cui stanno cercando di puntare con l'opposizione dei repubblicani, è di salvare le pensioni, i fondi pensionistici dei lavoratori, ossia di quella generazione dai 40 e 50 anni meglio pagata dei proletari giovani, anche nelle stesse fabbriche, in cui si vedono nei prossimi 15 anni il rischio di non avere la pensione. E questo per loro è un grosso problema, che ulteriormente gli dà maggiore difficoltà di stabilizzare una classe operaia, tutto sommato, che vive delle condizioni decenti, che però guarda in prospettiva e dice: cavolo, non c'è certezza che avrò la pensione. Scusatemi per la lunghezza. Posso? Sarò brevissimo io. Allora, per quanto riguarda l'intervento che ha fatto prima il compagno, l'altro di prima, non ricordo il nome, scusa, sono d'accordo. Sandro. Scusa, sono d'accordo abbastanza con lui e ha inquadrato un po' la situazione. Non sono d'accordo con lui perché una cosa che è il sogno di Frank Walter che vede guerra civile. Scusate, avete una vaga idea di che cosa sia una guerra civile? Cioè, perché parliamo di cose di cui dobbiamo anche rendercene conto proprio concretamente. Cos'è una guerra civile nel 2021? Cioè, non è possibile. Se ci sono i vili desideri degli ultrasinistra, a cui appartengo purtroppo anch'io, cioè non dobbiamo confonderli con la realtà, perché noi abbiamo visto delle rivolte, giustamente, che non sono una novità, ma ci sono sempre state, e Lorena e tanti altri in passato ci hanno raccontato che c'era uno scontro sociale che rasentava quasi lo scontro fisico. Non preoccupare, lascia fare. Con questa fascia che è sempre esistita, questi suprematisti, questi cazzoni che sono andati lì a Capitol Hill, sono sempre stati, erano nei loro paesi, nelle loro cittadine, con la bandiera americana fuori a inciuccarsi nei bar. Poi hanno trovato Trump e, come in Italia, quando è arrivato Berlusconi sono impazziti tutti, hanno trovato il mito. Ecco, Trump era il loro mito, il loro Lenin, e questi sono usciti da questi scantinati, da queste birrerie, e si sono illusi di avere la benedizione del presidente. Poi sono rimasti fottuti, tanto è vero che adesso molti di loro odiano Trump più dei neri, perché Trump li ha traditi completamente. Chiusa la parentesi. Quindi, che ci sia una guerra civile in nuce o in prospettiva negli Stati Uniti, scusate, io conosco abbastanza quello che accade, poco, abbastanza, ma non la vedo proprio. La vedo proprio nelle illusioni di chi sogna la rivoluzione degli anni 70. No, c'è un altro fatto, gravissimo, e chiudo. Uno, la situazione economica di un paese che è sempre stato definito imperialista, che è un termine che mi fa ridere. È ridicolo ancora usare questi termini nel 2021. Già quando c'è stato il 2001, la famosa aerei che spuntano i cuori gemelle, cosa credete? Gli Stati Uniti avevano i problemi economici e hanno continuato ad averli, che hanno tutti i paesi a economia avanzata del mondo, non sono speciali. Mi fa piacere che Visconti abbia citato il numero 4 di Caudal, perché abbiamo voluto mettere, per esempio, una cosa in evidenza, una cosa fondamentale. Uno, che tutte le industrie, non solo automobilistiche americane, hanno la componentistica all'estero, in Cina. È arrivato Trump e ha cominciato a fare il cretino con i cinesi e le grandi multinazionali americane, che non hanno più patria, le multinazionali non hanno patria, si sono incazzate con questo presidente deficiente che aveva creato problemi. Da chi è stato eletto questo presidente? Da tutti, perché c'è stato Kliman che ha fatto un'analisi scientifica del voto, non così a pelle, del numero delle fasce sociali che hanno votato Trump. Pubblicherò uno studio con questo. Lui dimostra che tutti hanno votato per Trump, tutti, gli operai, ceto medio, i capitalisti, gli agricoltori, tutti hanno votato. Per cui il problema di Trump è un problema che esiste. No, invece non si può, nel senso, io pensavo di sì. E il trumpismo continuerà anche senza Trump, perché è sostanzialmente una reazione, come diceva Luciano prima, a una situazione economica e sociale che si è trasformata completamente. Gli Stati Uniti non sono più quegli Stati Uniti che la gente aveva negli anni 70. Non esistono più queste cose qui, basta. E la Cina non è un paese imperialista, perché la Cina, le grandi corporation cinesi, non hanno comprato un cazzo in Occidente. Neanche un'impresa hanno comprato, non sono riusciti ad acquisire niente in Occidente. Cosa dici? Certo, esistono studi seri su questo. E noi dai, Antonio, te l'ha detto Marco Tronchetti Provera, allora, dai. Con i dati che la Cina in dei paesi a capitalismo avanzato non hanno comprato imprese, mentre sono le imprese, le grandi multinazionali europee e americane che hanno comprato altre imprese europee e americane. Questo è un dato che va detto in giro, perché ci sono dei luoghi comuni giornalistici, da Sole 24 Ore o dalla Repubblica, che la gente si beve come oro colato. Scusate, non voglio fare così, però cerchiamo di essere un po' più, diciamo, aderenti a una realtà che non è quella che desideriamo. Grazie. Scusami, allora, meno male, ottimo. Scusate un attimo, volevo solo precisare un paio di cose, no? E anche tutte le varie dissertazioni che ho sentito. Torniamo alla questione neri America. Allora, i neri che vivono una condizione per molti di loro, non per tutti, perché anche per i neri deve valere la questione di classe, perché se no qua si comincia a fare confusione, non è un problema perché uno è nero, no? E negli Stati Uniti chi pensa di poter fare un rivolgimento sociale, una rivoluzione, chiamata come volete, senza i bianchi, credo che abbia bevuto stasera, perché sono la stragrande maggioranza e oltretutto sono anche proletari puri bianchi. E poi in questo caso quelli neri che vengono citati non sono paragonabili alle officine Putilov di antica memoria, perché non rappresentano neanche ambiti dove vi siano le industrie più avanzate, sia da un punto di vista tecnologico eccetera, perché non a caso addirittura qualcuno ha detto che non solo prendono meno nei salari, ma nella stragrande maggioranza dei casi gli fanno fare i lavori più precari, più sottopagati. Esistono anche dei contratti di lavoro negli Stati Uniti. Esatto. Però quello che io volevo, per ritornare un attimino a bomba, era che è evidente che abbiamo un problema nel descrivere il futuro, no? Perché il futuro ci interessa, no? E il futuro degli Stati Uniti deve, per farci ragionare, senza risolverlo, perché se avessimo risolto il problema non c'era, non si faceva neanche questa trasmissione, parte da quel mutamento radicale delle condizioni di vita che ci sono, che si è prodotto nell'ultimo decennio. Che ha fatto sì in queste condizioni di vita. Quindi quello che abbiamo cercato recintamente di esporre, occorre seguirlo, conoscere chiaramente con estrema attenzione, perché il fronte interno americano produrrà molto velocemente delle questioni che poi sono inevitabilmente a una velocità superiore rispetto anche al passato, riflesso e contraddizioni nel mondo, non solo là. Insomma, l'impero è debole sia politicamente che economicamente, sia nel cuore della bestia, sia nelle periferie. E la superiorità del complesso militare americano non possiede un vaccino per eliminare il virus sociale. Questo non ce l'ha. Avrà la macchina militare più potente del mondo, ma non ha questo vaccino per fermare il virus sociale che si sta propagando. Poi non dimentichiamo però l'ultima cosa, poi finisco, che la maggior parte delle persone non si muove e lotta per una nuova società, ma si muove casomai e lotta per non perdere quanto ha raggiunto nella vecchia. E quindi questa diventa proprio una sfida, dove in parte quello che diceva Sandro prima è vero, che come oggi siamo in presenza di un tutto contro tutti a vari livelli e vari gradi, e che al momento evidentemente si questo capita dentro anche la classe e le classi. Questa è la sfida, e la sfida diventa ancora più importante in questa fase, perché è vero che, un po' come diceva Sandro, siamo in un momento di una transizione dove questo modo di produzione, questa pandemia infatti ci ha fatto anche vedere o accennare, e insomma non è che questa società potrebbe andare avanti con l'elicottero umano, cioè a dare soldi a tutti. Devi tenere fermo il microfono, perdonami. Devi tenere fermo il microfono. Sì, questa società non può andare avanti col sistema delle quarter money, cioè a dare soldi senza aver ottenuto valore. Questo è impossibile, se no diventa un'altra cosa. Io ho finito per adesso. E poi posso dire due parole, Marco? Certo. Pietro. Ciao. Ciao, posso dire? Certo. O c'è qualcuno? Allora, meno male che hai messo un po' di ordine nella discussione, perché altrimenti non so di quale oggetto stiamo parlando. Allora, telegrafico, punto primo, non vedo questa grande discontinuità tra Trump e Biden. La necessità del capitalismo statunitense tutto è di dare botte da orbi a tutti, e quindi Make America Great Again sarà anche il programma di Biden, con qualche piccolo aggiustamento. Non vedo Trump come americanista e Biden come globalista, assolutamente. Dietro Trump c'era la Goldman Sachs, gli unici ministri che non si sono mai dimessi, non hanno mai pensato di dimettersi, sono i rappresentanti di Goldman Sachs, che notoriamente è un potere globale. Ora ci sarà questo BlackRock, quel che sia, probabilmente c'è anche una guerra tra i vari gruppi finanziari, questo sicuramente, però non credo che siamo di fronte a una forte discontinuità, non lo vedo. Secondo, vedo invece, è quello che ci interessa più profondamente, un duplice processo: una polarizzazione sociale che sta decomponendo il ceto medio da circa 50 anni negli Stati Uniti, certo poi ricresce in altri ambiti, però globalmente in decomposizione da mezzo secolo, e c'è una parte importante che si sta impoverendo, e vedo anche l'impossibilità di un capitalismo statunitense che perde quote di valore nel mondo, di continuare ad avere una tranquilla, vasta, aristocrazia operaria. Questa possibilità si sta riducendo via via, salti anche drastici. Quindi la polarizzazione sociale è il processo più importante sul quale, secondo me, dovremmo concentrare la nostra attenzione. Naturalmente è un processo disordinato, caotico, contraddittorio, come tutti i processi capitalistici. Non c'è niente di lineare nella storia del mondo, tantomeno in quella del capitalismo. Però l'attenzione dovrebbe essere proprio su questo, su cui la richiamava ora Marco. Terzo punto: quello che sta accadendo agli Stati Uniti e negli Stati Uniti è terribilmente promettente per noi, anche se minaccioso, perché può portare anche, io non la escludo, ad una guerra di tutti contro tutti, in cui i proletari si fanno subordinare da due schieramenti borghesi in guerra tra di loro. Non la vedo l'ipotesi più probabile, però niente la può escludere. Quello che invece vedo come importante e promettente è che questo che è stato per un secolo il grande regista dell'ordine mondiale, anche se ha 800 basi nel mondo, non è in grado militarmente, questo è sicuro, perché sono 30 anni che perde le guerre, e più anche, anzi dal Vietnam, quindi sono 45 anni, e non è in grado di essere il gendarme del mondo, e sempre meno è in grado di governare, di comandare l'economia anche nel campo monetario. E quindi questo è estremamente promettente, a mio parere. Ecco. E naturalmente poi tutto sta a vedere come evolvono le cose, però è l'ultima cosa che dico e ho finito. La questione nera, su cui ci sono state interessanti riflessioni, non va vista a sé dalla questione sociale, è un aspetto della questione sociale, è un aspetto della polarizzazione sociale, ma noi non siamo 150 anni fa negli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America non devono liberarsi da una dominazione coloniale, devono cercare di mantenere la propria dominazione coloniale, e questo comporta, visto che è impossibile da realizzarsi, e qui c'è l'interrogativo prospettico, le guerre che da questo possono scaturire, o la grande guerra che da questo potrebbe scaturire. E anche per questo io ritengo che sia stato estremamente interessante che i militari del Pentagono non abbiano voluto schierare l'esercito all'interno degli Stati Uniti contro le manifestazioni di Black Lives Matter. Credo che sia una cosa di un'unione eccezionale, per cui riporterei, se possibile, l'ordine del giorno ai temi che erano stati posti nella relazione o nelle relazioni introduttive. Scusa, puntualizzo due o tre cose, perché sia Pietro che Antonio. Allora, quando io parlo di guerra civile, mi sembra che Antonio non è che dico che c'è una guerra civile in atto, c'è una possibile tendenza alla guerra civile che scaturisce da queste contraddizioni irrisolte, no? Quindi piuttosto diffuse su scala planetaria, poi dopodiché la vera guerra civile non la vediamo, e certo non è stata quella commedia dell'assalto a Capitol Hill. E quindi questo è un fatto. Su quello che diceva ancora il compagno prima, su questa divisione salariale negli Stati Uniti tra giovani e anziani operai, non è un fatto razziale, è che proprio i contratti statunitensi funzionano così. Anche molti anni fa, negli anni 70, quando io per un po' sono stato negli Stati Uniti, gli operai giovani che entravano avevano bianchi, perché avevano una paga più bassa, avevano meno ferie, e poi c'è una sorta di carriera interna in base agli anni che si fanno. Se uno, insomma, negli Stati Uniti, se uno non ha almeno 20 anni all'epoca, adesso non so come sia, ma all'epoca era così, se uno aveva almeno 20 anni di lavoro nella fabbrica, 3 settimane di ferie non le aveva. Quindi voglio dire, e tanto è vero che quando quando la Fiat è entrata in Chrysler, ha cercato di differenziare ancora di più i salari tra operai più anziani e operai giovani, e allora il sindacato ha cercato di impedire questa cosa, no? Quindi non è una questione razziale, non è se un operaio nero o latino guadagna di meno è giovane, no. Se uno è giovane, entra in fabbrica negli Stati Uniti, guadagna di meno, ha meno garanzie, e probabilmente adesso continuerà anche a avere meno garanzie dal punto di vista pensionistico, eccetera. Quindi queste sono due cose che, insomma, ci tenevo a dire. Poi c'era una terza cosa che diceva Pietro, che partiva, anche lì prendeva un po' spunto dal mio intervento, però purtroppo parlando me la sono dimenticata, e se mi viene in mente ve la dico dopo, scusate. Se io posso rispondere, il problema non è che la discussione degenera o meno, cioè si fanno delle considerazioni che sono discutibili, questo è, si va fuori tema, non è che Pietro ogni volta ci dice che abbiamo, è chiaro che in una discussione così, poi su un tema abbastanza generale, e purtroppo, lo dicevo anche nella mia email, non c'è un documento, uno scritto sul quale basarci, cioè lo legge lo scritto, ha una specie di Vangelo sul quale può discutere e organizzare un intervento. Facciamo interventi a braccio, sostanzialmente, sulla base delle opinioni che ci siamo formati o meno. Non è che uno fa disordine, non siamo ad una lezione universitaria. Il problema è anche questo, cioè se qualcuno fa delle affermazioni categoriche, tipo, non so, il mio amico Visconti che dice Lorraine Goldberg presuppone la guerra civile. Lorraine Goldberg 4 volte che ci dice che c'è la minaccia di guerra civile. Mi voglio bene a Lorraine, lo conosco benissimo, ma è la 4ª volta che ce lo dice, per cui io sto molto attento a queste espressioni dell'ultrasinistra e non voglio assolutamente confondere i miei desideri con la realtà. Cioè, quando noi cerchiamo il più possibile, noi che cercano di produrre e tradurre materiale dall'estero interessante che in Italia non esiste, lo facciamo per cercare di approfondire delle questioni sulle quali molti si fanno già dei castelli in aria e già deciso che ci sia la divisione sociale tra i super ricchi e i ultra poveri. Sono decenni che si dice, Piketty ci ha costruito un mese su questa cosa qui, Saez i suoi studi li sta facendo da molti anni sulla polarizzazione della società, e non solo negli Stati Uniti, in Europa, in Italia o meno. Ma il fatto che la società si sia polarizzata in maniera così estrema, che negli anni 70 ce la toglieravamo questa situazione rivoluzionaria, non presuppone il fatto che gli estremamente poveri reagiscono contro questa ingiustizia, purtroppo. Lo può succedere, ma finora elementi non ne abbiamo avuti, perché sì, hanno reagito quando è morto, è stato ucciso dal poliziotto il nero americano, però c'è anche l'altro problema, non hanno reagito più dopo, una volta che la polizia ha cominciato a caldeggiare l'intervento dei manifestanti, una volta che il clima si capiva che si trasforma, guardate che negli Stati Uniti è andata a votare gente che non votava da decenni. Il terrorismo di Trump ha provocato una reazione allucinante, per cui gente che non ha mai votato è andata a votare per mandar via questo mostro. Cioè, per cui la situazione è ben diversa dai tempi. Sì, sì, grazie Antonio, mi è venuta in mente la cosa che non avevo detto prima. Io non ho detto che Trump sia antiglobalizzazione, Biden pro-globalizzazione, però per motivi puramente strumentali, politici, elettorali, l'uno ha cavalcato uno scontento di un certo tipo, così come Biden ha cavalcato lo scontento dei neri, delle donne e di altre cose. Coronavirus, non dimenticate il coronavirus. Poi quella polarizzazione lì c'è questa crisi delle classi medie, c'è questa frattura, c'è, quindi qualcosa ci dice di come sta andando l'America. Sì, volevo dire a proposito di questo, l'ultima parola che anche ha tirato fuori Antonio, ma anche questa questione della pandemia, sì, cioè, voglio dire, ci deve allarmare ancora di più, perché anche questo è un altro senso della, come dire, una situazione sempre più fuori controllo da parte di tutte le principali potenze che in teoria dovrebbero condurre la danza del capitale. Questo non dimentichiamolo, cioè, perché basta che ci guardiamo in giro cosa è successo in Inghilterra, in America, in Italia, in Francia, in Germania, e tutto questo è anche un ruolo che, insomma, questi stati, soltanto con una spiegazione che siano sempre più sottomessi alla globalizzazione, quindi abbiano perso la loro funzione, si può spiegare, però perdendo la loro funzione si apre scenari dell'incontrollabile sempre più evidenti, e dall'incontrollabile, chiaro, no? Nessuno di noi è in grado di stabilire al momento cosa può succedere, però tanto per fare riferimento al movimento dei neri che abbiamo visto quest'estate, dobbiamo anche avere la capacità di essere una sonda che quantifichi, che misuri, che capisca che cosa è successo, perché comunque 130 giorni di lotte in 50 stati e non so più quante città negli Stati Uniti diventa un fatto che sotto certi aspetti diventa ancora più significativo di quel movimento del Black Panther che avevamo visto negli anni scorsi. Basta. Io vorrei mettere, Marco, dimmi, in luce due cose. Uno, riprendendo quello che dice Pietro, guardare con molta attenzione e anche una certa gioia quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Secondo, la continuità della politica del potere americano, che non è solo Trump Biden, ma è Obama Trump Biden, perché il movimento di virgolette deglobalizzazione, o comunque l'avvio di alcune manovre per il controllo dei mercati in modo diverso, viene fatto da Obama, proseguito nel modo apparentemente caotico e relativamente nuovo da Trump, e sarà senz'altro proseguito da Biden. Però fino a quando gli Stati Uniti, il dollaro americano, avrà il dominio dei mercati finanziari, cioè fino a quando non vi sarà la crisi definitiva del dollaro, i sovrapprofitti che alimentano la potenza dei finanzieri americani, dico dei finanzieri, non del popolo e del proletariato ovviamente americano, saranno più o meno garantiti. Noi non dobbiamo vedere soltanto la forza produttiva di un paese, ma la sua capacità di dominare finanziariamente il mondo, perché siamo in un mondo di capitalismo parassitario e finanziario, e per ora la potenza del dollaro resiste ancora, tant'è che le potenze europee, le banche europee negli anni scorsi, pur di rimanere sul mercato americano e pur di rimanere sui grandi canali del dollaro, hanno fatto, hanno accettato di pagare multe miliardarie, che sono veri e propri strumenti di rapina inventati dalla magistratura e dallo Stato americano contro tutte le altre potenze del mondo. Ricordate che la Société Générale o la Deutsche Bank e così via hanno pagato quello che hanno pagato. E per ora non hanno rotto il dominio del dollaro, come non l'hanno rotto ancora, anzi si sono ancora di più legati adesso, i petromonarchi, e al dominio del dollaro va collegato anche la calibratura della macchina bellica americana, che è ancora la più potente del mondo. Per cui, seguendo quello che diceva Pietro, probabilmente alla crisi finanziaria che si avvicina, perché gli Stati Uniti sono indebitati come non mai all'interno e all'esterno, alla crisi finanziaria che si avvicina, si collegherà anche lo scatenamento di questa macchina bellica per mantenere il dominio, che non è solo monetario ma anche militare. Detto questo, al dollaro, al strapotere del dollaro, corrispondeva negli anni scorsi, nei decenni scorsi, l'irrigazione del mercato interno e la possibilità per una parte della classe operaia, anzi del proletariato americano, oltre che delle classi medie, di godere in parte, ovviamente, della American Way of Life. Questo appartiene al passato in gran parte, perché negli ultimi vent'anni e soprattutto nell'ultimo decennio sotto la presidenza Obama abbiamo visto lo sviluppo di una crescente rivolta sociale. Non abbiamo ricordato qui che nel luglio 2016 ci furono le rivolte, cioè Black Lives Matter e opera dal 2013. Nel 2016, fine della presidenza Obama e prima delle elezioni di Trump, viene ucciso a Minneapolis, la stessa città in cui viene ucciso poi George Floyd, 4 anni dopo, un giovane nero. E da questo nascono, dalla polizia, e da questo nascono delle rivolte importanti. Bene, se confrontiamo quelle importanti rivolte, nere soprattutto, del 2016 a quelle avvenute quest'estate, tra la fine della primavera e quest'estate, e che in parte proseguono ancora, pare che a Portland e in altre città del West Coast ci siano ancora delle proteste notevoli, se confrontiamo i due movimenti vediamo un sviluppo in estensione e in intensità in un solo quadriennio veramente eccezionale, tant'è che le rivolte sono state, le manifestazioni, le proteste sono state in 50 stati, c'è stata senz'altro un'organizzazione politica in senso lato delle manifestazioni che ha dato a queste manifestazioni continuità e anche alcuni obiettivi che prima non c'erano, per esempio quello di disarmare la polizia, quello di non finanziare la polizia, che sono obiettivi sì apparentemente democratici, ma toccano la vita quotidiana di coloro, dei giovani che vivono nei quartieri di periferia e nei ghetti. Di conseguenza, secondo me, c'è un grande, come diceva il presidente, che noi non amiamo certamente, c'è un grande disordine sotto il cielo, la situazione è dunque eccellente. Sì, fino a un certo punto dobbiamo vedere questi sviluppi, che sono collegati anche al declino relativo della potenza americana. Declino che però non può essere più pesato soltanto sulla base della forza industriale pura di un paese come gli Stati Uniti, ma anche sulla base della sua capacità di rapina finanziaria, che è garantita per ora, e ripeto per ora perché tra 1 o 2 anni forse faremo discorsi completamente diversi, dalla potenza del politica e finanziaria del dollaro. Un altro fatto che mette una certa, un certo ottimismo è che gli Stati Uniti si trovano nella loro attuale situazione anche perché non riescono più ad avere le stesse capacità di dominio sia nel loro terreno di casa, cioè l'America Latina, che è un continente in ebollizione sociale, sia perché non riescono più ovviamente a dominare l'Asia, che però rimane ancora molto importante e può essere, malgrado lo sviluppo della Cina, divisa e messa in contraddizione interna dalla politica statunitense, basti pensare alla questione della Corea, del Giappone e così via. Io ho terminato. Scusa, siccome non vi conosco, qual era il tuo nome che si è appena intervenuto? Ivo. Non so, io volevo solo dire ancora una cosa, anche perché adesso l'ora è avanzata, però credo il nostro tentativo è un tentativo. Marco, vieni più vicino, sei più vicino, se no... Senti adesso? Mi sentite? Sì, ma c'è un eco. Quello che stavo dicendo era questo, che ho cercato di vedere. E non so. È come se ci fosse qualcuno che abbia il computer che il cellulare connesso, due sorgenti d'audio. Non sono io, perché l'ho spento e quel rumore c'era ancora. Francesco, è possibile spegnere tutti i microfoni? Scusa. Lo sto facendo. Scusa, è una cosa odiosa, ma se non lo capiscono... Adesso mi sembra che è andato tutto via, mi sentite? Qualcuno faccia solo il cenno. Ok, no, brevissimamente. Noi abbiamo cercato di mettere a fuoco alcune considerazioni in un'ottica di andare anche a verificare, perché per ragionare bisogna anche avere un minimo di condivisione su quelle cose che si dicono, perché sennò è evidente che se questa minima condivisione non esiste, qualsiasi ragionamento perde il senso. Io ritengo che bene o male, salvo taluni casi, alcune condivisioni sui ragionamenti ci sono state. Ritengo che sia possibile, chiaramente andando poi a verificare quali argomenti possono interessare di più, per approfondirli. Questa è la mia opinione, chiaramente, però partendo da delle considerazioni che siano condivisibili. E una di quelle, credo, sul ruolo degli Stati Uniti, ritengo che l'abbiamo delineato abbastanza bene, senza avere nessun anti-americanismo di maniera, ecco. Se qualcuno ha da dire qualcosa ancora lo può dire, per me ho finito, via. Io, se volete, volevo giusto dire un 30 secondi, una battuta, nel senso che la discussione è interessante, secondo me andrebbe capita le caratteristiche inedite del movimento per George Floyd, cioè la rottura di continuità con in avanti di quello che è successo prima, perché le rivolte non solo hanno riguardato 50 stati, hanno visto 26 milioni di persone in piazza, tantissime, solo nei primi sei giorni sono stati distrutti 2 billion dollar, che ci sarebbero quindi 2 miliardi di euro e di dollari, solo nei primi sei giorni di rivolta. E ci sono state anche nei centri urbani più piccoli, nelle contee più piccole, ci sono state delle manifestazioni di ribellione dopo l'assassinio di George Floyd, e che hanno visto una presenza decisiva di giovani proletari bianchi, che sono proprio quei giovani proletari bianchi che prendono non solo le peggiori paghe anche nella vecchia industria, ma anche nella new economy, della gig economy americana, che sono quei settori sociali che sono stati colpiti maggiormente dalla crisi. Faccio un esempio: l'indebitamento dei giovani studenti, che in molti casi stiamo parlando di studenti che devono conseguire il secondo livello di diploma, quindi i nostri licei, sono indebitati, le famiglie prevalentemente di lavoratori subiscono il debito di questi giovani, e questi giovani sono stati attratti da questa ribellione. Questo è un dato estremamente importante, perché una rivoluzione sociale, nessuno dei compagni che avete citato, né Scemo né Arturo né il mio blog, ritiene che ci possa essere una rivoluzione solo fatta dai neri, ma ritiene che anche la comunità nera e latina si separa attraverso linee di classe. La middle class nera e latina sentono il fiato sul collo di queste rivolte, cercano di fare di tutto per ricondurle sotto un ambito confortevole rispetto alla loro posizione di classe, però questo pone un problema, pone una novità di un diffuso movimento che comincia ad attrarre settori consistenti di proletariato. A Portland, che è una delle città dove la comunità nera è solamente il 5% della popolazione di Portland, quindi è veramente, veramente una minoranza, 100 giorni e passa di rivolta su questa questione, di questo movimento contro la violenza razzista della polizia, ci deve indicare che c'è una novità, che è tutta all'interno dell'ingovernabilità delle contraddizioni da parte dell'imperialismo e del capitalismo americano che voi stavate dicendo. Ma questo, scesa in campo, cambia, mischia le carte in tavola. Guardate che uno dei motivi interessanti, prima del passaggio di gennaio della consegna di potere, quando Trump ha fatto quel braccio di ferro che voleva dire al Congresso: i soldi che state, diciamo, di nuovo confermando per gli assegni alle famiglie americane, $600 a settimana, sono troppo pochi, bisogna darne di più. Lui poi, per incisa, ha detto: tagliando soldi della spesa federale che noi spendiamo all'estero, ossia le operazioni internazionali degli Stati d'America. È ovvio che nel tentativo di inseguire una rabbia crescente della perdita di sicurezza del ceto medio e anche della classe, settori consistenti di proletariato bianco, della classe operaria tradizionale bianca americana, lo porta a dire queste cose, è frutto dell'ingovernabilità, cioè è espressione dell'ingovernabilità delle contraddizioni. Ma in questa ingovernabilità tanto pesa questa rivolta del 2020. Questo, secondo me, è l'aspetto che andrebbe approfondito. Come possa poi incidere per il futuro, evolversi nel futuro, è un tema aperto. Sì, su questo. Ultima considerazione, è indubbio che questo movimento che abbiamo visto abbia un valore aggiunto rispetto al passato, ma al tempo stesso stiamo molto attenti di non fare confusione andando a verificare in che rapporto sta il movimento con la statistica delle vetrine rotte del centro commerciale dove si va dentro e si porta via la televisione, perché un movimento, non dimentichiamocelo, lo si qualificherà attorno a un programma, e al momento questo movimento di programmi, insomma, al momento non sono pervenuti. Ma sul programma, uno dei rischi grossi è che il Black Lives Matter di adesso abbia una componente veramente molto più forte di quello che hanno avuto i movimenti neri del passato. Prima si parlava del Black Panther Party. Black Panther Party aveva una visione internazionalista comunque della posizione dei neri. Una grossa parte di Black Lives Matter, che è quella poi cavalcata anche dalla upper middle class nera, no? Che comunque rivendica dei diritti, diritti proprietari, diritti di partecipazione, di riconoscimento, in realtà insiste molto sul fattore identitario, che è un fattore altamente divisivo per tutti i discorsi che stiamo facendo. se Black Lives Matter si limita almeno in una sua parte alla rivendicazione puramente afroamericana, come ha manifestato verbalmente in molti modi, è certamente l'incontro col proletariato bianco, con lo scontento delle classi medie, con i latinos, perché poi i latinos hanno anche votato massicciamente per Trump ancora. Cioè sono tutti fattori di quella contraddizione enorme che si sviluppa al centro dell'impero, che è in crisi, e però da adesso riuscire a dire no, questa è la via, eccetera, a mio avviso è molto difficile. Possiamo, certo la paura c'è, quello che ho detto all'inizio, questa specie di colpo di Stato che sta facendo Biden, colpo di Stato non per le elezioni ma per il comportamento militaresco eccetera, ha a che fare con la paura che la situazione diventi ingovernabile, perché tanto Trump non ha potuto mantenere le promesse nei confronti dei suoi elettori, tanto non potrà farlo Trump nei confronti di quell'elettorato nero bianco che ha creduto che lui potesse modificare delle cose. Quindi questo è un problema, secondo me, che si riallaccia a quello che avete detto tutti. Poi... Sandro, scusa, nel movimento, sono Pietro, nel movimento hai ragione che diciamo lo strato superiore è quello più organizzato con le vecchie organizzazioni nere tradizionali per i diritti civili, ha molto insistito sull'elemento, però accanto a questo chiamiamolo pure anche piccola, forse non piccolissima, burocrazia, chiamiamola così, che si è sedimentata rispetto agli anni 60, la novità, no? Mi pare c'è una buona documentazione, la novità dello strato più giovane, ma anche più dei neri, è questa di una lotta che li ha visti insieme con i bianchi e con i latinos. Ecco, credo che questa novità, che naturalmente può svilupparsi e può rinculare, no? Naturalmente, questa novità è veramente una novità. Va bene, se non anche perché vedo che molti hanno abbandonato, se non c'è nulla possiamo anche chiudere al momento, poi vedremo di riprendere tutte queste conversazioni, considerazioni. Francesco, volevi dire qualcosa? No, volevo solo dire che abbiamo intenzione di andare avanti, cioè che noi avevamo iniziato questa discussione interna sugli Stati Uniti prima che avvenisse la sceneggiata di Capitol Hill, proprio per il ruolo degli Stati Uniti, si è detto un capitalismo in crisi globale che non riesce più a controllare le contraddizioni che suscita, e il cuore centrale sono gli Stati Uniti. Capitol Hill ha fatto un po' precipitare con tutto quello che si vuol dire e ci impone di analizzare la questione, perché stanno avvenendo delle cose nuove dal punto di vista, è stato ampiamente detto, del movimento sociale che noi non conosciamo, che dobbiamo comprendere nelle sue articolazioni. Io ieri sera stavo guardando delle cose, ho scoperto un movimento per la cancellazione degli affitti che ha delle cose di estensione grandissima negli Stati Uniti, sicuramente non comunista, ma che sta mettendo in piedi 900.000 scioperanti dell'affitto negli Stati Uniti, e ci sono leggi dell'amministrazione che vanno ad affrontare questa cosa. Allo tempo stesso abbiamo un problema politico qua. Ci si racconta che Biden sta combattendo il fascismo di Trump e finagliacciate di questo genere che si muovono all'interno della sinistra. Basterebbe ricordare, c'è nella chat adesso riferimento a un articolo, quella che è stata la politica democratica con Obama, primo nero alla Casa Bianca, di quello che ha combinato nell'estremo oriente, in Pakistan, in Afghanistan, è stato lui a decidere a mandare le truppe in Libia misurate nel 2014, ha fatto un programma di assassini mirati in mezzo mondo, ha fatto una politica di riarmo degli Stati Uniti, e sono tutte cose che secondo me dobbiamo affrontare, perché niente sarà più come prima, a partire dagli Stati Uniti che sono in crisi, una crisi quarantennale, principale paese capitalista al mondo, quello in cui c'è la maggior quantità di poveri, un paese tra virgolette sviluppato e decrepito. Tutto qua e chiudo. Stanno costruendo 524 fregate per rinnovare questa parte di marina d'attacco, per dirvi quello che hanno in piano di fare in tutto il mondo. E la Fincantieri ha presentato il suo modello di fregata che è stato accettato dal Pentagono. Va bene, cosa facciamo? Chiudiamo qua, eh? Sì. Se non c'è qualcuno che vuole... Prossima, ciao Sergio. Ciao. Ciao. Ciao Marco, ciao a tutti. Salutato quelli... Alla prossima, dai, ciao. Alla prossima. Che vedo più raramente. Saluto a tutti gli altri che vedo più spesso. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.